Italia in controluce. Buongiorno a tutti e buon pomeriggio da Daniele Biacchessi. Oggi è il 27 settembre, termina la lunga avventura durata 3 anni di questo programma, che era iniziato come un approfondimento del nostro giornale radio, cioè un programma d'inchiesta, e poi si è sviluppato nel corso di questi anni nell'ultima versione, quella che state ancora ascoltando, all'ausilio soprattutto degli ascoltatori. Da lunedì a quest'ora sentirete Effetto Giorno, che è un lungo notiziario in cui lunedì e venerdì tornerò a raccontarvi con dei piccoli reportage da 5-6 minuti la cronaca e alcune delle cose di informazione di cronaca il piglio, come sempre, dell'inchiesta, il piglio narrativo e racconto. La puntata di oggi l'abbiamo chiamata così: Governo Letta, l'ultimo valzer. Il governo delle larghe intese, dunque, appeso ad un filo esile sottile dopo la decisione dei parlamentari del PDL di dimettersi in massa il 4 ottobre in caso di decadenza del loro leader Silvio Berlusconi. Il clima di forte instabilità politica trascina a ribasso le borse, a rialzo lo spread. Non è neanche bastato l'ultimo appello di ieri del capo dello Stato Giorgio Napolitano, ce n'è uno nuovo oggi in cui si dice che è stata smarrita ogni nozione del confronto civile. Napolitano ha parlato a Milano ricordando la figura di Luigi Spaventa. È certo dunque che lo scontro fuori e dentro il governo tra PDL e PD si fa sempre più aspro, le distanze tra i partiti di maggioranza risultano sempre più incolmabili. Oggi Letta va da Napolitano intorno alle 16 o 17 e riferisce sulla evidente crisi politica, poi il Premier deciderà dimissioni oppure nuovo patto di maggioranza. Chiediamo ai nostri ascoltatori attraverso gli sms 349-238-6666 che cosa deve fare a questo punto Letta: rimettere il suo mandato a Napolitano, avviare una nuova verifica di maggioranza per capire se esiste ancora una fiducia da parte di uno dei partner di maggioranza, cioè il PDL, andare in Parlamento e vedere poi se c'è innanzitutto la fiducia della maggioranza e se ci sono anche successivamente voti per altre maggioranze. 349-238-6666 sono i vostri sms. Intanto io mi collego subito con Elisabetta Fiorito, a cui chiedo su questo incontro tra Letta e Napolitano se si sa l'orario e se si conosce un po' il percorso che vuole fare Letta in queste prossime ore. Allora, l'orario è quello del pomeriggio, anche perché Napolitano deve tornare da Milano, appunto, e per questo che Enrico Letta aveva detto subito: io appena arrivato, appena atterrato, mi farò una doccia, andrò al Quirinale. Invece deve attendere il capo dello Stato di ritorno, quindi sarà sicuramente a metà pomeriggio. Si sa solo che il Consiglio dei Ministri, che si doveva svolgere come ogni venerdì, non è stato convocato e che la convocazione probabilmente avverrà dopo questo incontro. Per il resto, quello che si è capito sin da ieri, quando poi Letta ha anche accusato il PDL di aver umiliato l'Italia, perché queste voci di crisi avvenivano in un viaggio molto importante negli Stati Uniti da parte del Premier, e quello che si sa scusate, è che Enrico Letta vuole parlamentarizzare la crisi. Che cosa vuol dire in termini tecnici? Vuol dire che vuole portare la crisi in Parlamento, vuole vedere se i senatori del PDL voteranno il no alla fiducia. Quindi i senatori, sappiamo, si devono alzare, devono andare allo scranno del Presidente e dire sì o no alla fiducia. Quindi vuole che i senatori del PDL ci mettano la faccia. Quindi, Daniele, in sostanza chiede di tornare in Parlamento da là dove aveva avuto la fiducia, no? Ovviamente. Certo, lui chiede di tornare in Parlamento. Sappiamo già che nel PDL ci sta qualche malcontento, perché c'è stata questa firma di dimissioni in massa. Poi Brunetta e Schifani, che ricordiamo sono i capigruppo dei Senato e Camera, hanno detto che questo però non inciderà sull'andamento del governo. Ma come fa a non incidere se poi i senatori o i deputati si dimettono? Ricordiamo che poi la procedura di dimissioni è molto molto lenta, perché se un senatore o un deputato si dimette e poi deve essere votato dall'Aula, l'Aula deve accettare o meno queste dimissioni. Figuriamoci poi per tutti i parlamentari del PDL, la vedo un po', è ovviamente una mossa politica. Bene, grazie mille. E intanto sono arrivati i vostri SMS come da chi chiede elezioni subito, da chi contesta duramente la classe politica di questo paese che dice un nostro ascoltatore non vale nulla, meritiamo il commissariamento, sono un elettore di centrodestra e non andrò più a votare nel futuro. Questo governo non è stato votato da nessun italiano, dice Antonio da Verona. PDL è vergognoso, dobbiamo andare alle urne e seppellirlo. Siamo uno stato ridicolo fatto di egoisti che pensano solo al proprio interesse, devono andare a casa tutti, ci vuole piazza pulita, dice Marcello. Doveva dimettersi invece Napolitano, tempo fa appurato che non c'era la volontà di cambiare la legge elettorale come richiesto alla rielezione. Emanuele da Cuneo, chiedere potere totale ai due partiti è una follia, siamo uno stato ridicolo. In Italia i governi servono solo ad aumentare tasse e burocrazia, dice Piero. Siamo sotto scacco di un delinquente, io abbandonerò la Repubblica delle Banane, un altro ascoltatore. Letta deve dimettersi, non sta facendo niente per uscire da questa crisi. Governo Letta, il canto del cigno. Speriamo in una nuova compagine. Un altro ascoltatore dice no, il PDL non deve dimettersi, anche se il PDL o Forza Italia si dimettessero. Alta maggioranza è meglio tutti a casa. Antonia, ma che sconto il PDL da tutto da solo per sfasciare il paese. Muoia Sansone con tutti i filistei, basta con questo stilicidio, scrive Cristiano e così via. Allora, con noi c'è anche Vincenzo Miglietta perché oggi c'è stata anche la direzione del PD. Vincenzo. Sì, buongiorno. Direzione del PD che ha confermato l'8 dicembre come giorno per le primarie, per l'elezione del prossimo segretario, ma logicamente la direzione guarda con preoccupazione all'evolversi della situazione politica. Epifani però appoggia e sposa la linea di Letta di parlamentarizzare la crisi. Il governo ha una via obbligata, dice Epifani, dopo aver riferito a Napolitano, aprire in Parlamento un chiarimento risolutivo sulla situazione. In questo il PD sosterrà Letta, dice ancora Epifani. Fani che ricorda non possiamo uscirne con un nuovo giro di valzer, sotterrare oggi l'ascia di guerra e dissotterrarla domani. Quindi dal PD arriva un out al Popolo della Libertà perché prenda una decisione se rimanere a fianco del governo Letta, ma questo vorrebbe dire andare avanti con i prossimi provvedimenti Telecom, IMU, IVA oppure rompere l'alleanza e evidentemente la prossima tappa sarebbe il voto. Daniele. Grazie a Vincenzo Miglietta, grazie a Elisabetta Fiorito, grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno sentito in questi tre lunghi anni di racconto dell'Italia. Naturalmente riprenderemo un altro modo di raccontare il nostro paese con effetto giorno, effetto notte dalla prossima settimana e tutta la redazione impegnata al grande racconto del paese, la grande narrazione che forse è mancata da parte dei media, da parte dei mass media. Radio 24 ci sta provando, ci prova tutti i giorni. Grazie ancora e Italia in controluce è stata questa 27 settembre in studio vi ha parlato Daniele Biacchessi.